fare la guerra. Con pistole ad acqua, sguardi e sempre un nuovo stratagemma. Sono pronto a fare l'amore dentro ai libri di storia o con la figlia del dottore. Anche se poi vuoi vincere sempre tu, anche se poi vuoi vincere sempre tu. Sono pronto a fare la spesa col vestito più elegante oppure solo in mutande. Sono pronto pure a venirmi incontro e fumare di meno e fare il taxi a tempo pieno. Anche se poi vuoi vincere sempre tu, anche se poi vuoi vincere sempre tu. Pure al telegiornale, ma soltanto i mesi dispari di ogni anno bisestile. Sono pronto a imparare il mandolino, sono certo che lo suonerei da Dio se lo avessi vicino. Anche se poi vuoi vincere sempre tu, anche se poi vuoi vincere sempre tu. Anche se poi vuoi vincere sempre tu, anche se poi vuoi vincere sempre tu. Sto stempiando e certi treni non si possono perdere. Sto arrivando, ho tardato alla caffetteria.